mira bene. Dritto qui, in mezzo al cuore. Vedrai, non morirò. Un cuore più non ho. L'ho regalato a te, che sei il mio amore, la mia ragione. Amami per come sono. Non è così, sono solo un uomo. E tutto ciò che ho io te lo donerò. Vivrò solo per te, che sei il mio amore, la mia ragione. L'amore fa soffrire, ma quando nasci non può morire. Resterà dentro di te, pronto a esplodere. Io però non morirò, anche se un cuore più non ho, l'ho regalato a te, perché l'amore è la mia ragione. Sparami e mira bene. Ma non farmi soffrire. Amami